tutto nero, non me la fotti tutta, la passa da me. L'importante è che si vada avanti, per il resto non la frega un cazzo di nessuno. Ah, quello sì, no, ma io sono rimasto stupito perché non ho chiesto niente, non la conosco, ma la conosce mia moglie questa persona, e ho visto che me ne stava succedendo di colore un giorno una, rischiando la vita, questa è un'altra, no, non è possibile. Ma non me l'ha detto mia moglie, ho detto, ma non mi fa ne fare delle calda, lo fa, grazie a Dio. Tutto qua, ma ho le male lingue tornerà indietro. Sempre qualcosa appresso con me spinti, poi per il resto tanto è così e basta, c'è chi apprezza, chi non apprezza, e quindi ognuno dovrà proseguire per la propria strada e pensare a se stesso, lasciar perdere i cazzi degli altri, manco per le balle me ne sbatte. Io ti ripeto, va bene, per il momento non mi posso lamentare. C'era qualche mese fa qualcosa un po' sempre a rilento, non è che ero molto contento, ma nonostante quello che mi è capitato, ti ripeto, quello che avevo progettato è andato in porto, e al lavoro va bene, a casa non ci sono problemi, e allora me ne sbatto i coglioni, quello che dicono e fanno gli altri, penso a me. Fai bene. Vabbè, collega, io sono arrivato, che adesso faccio entrare il mio collega e qualche giovane. Ci sentiamo, un po' proseguo, ha fatto piacere. Vabbè, il piacere è tutto mio, almeno ti ho fatto 10 minuti in compagnia. Lascio ancora acceso, nel caso ci sia ancora qualche uno che ha voglia di chiacchierare, se no lascio tutto acceso lo stesso, me ne frega un cazzo. Ciao Romè, un abbraccio grande, buon riposo, buon tutto e buona giornata per domani. Saluti a casa. Cappa, oltre a cambiare l'800, dai, ciao.